si yo, viene lento divagar, una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chi mi conosce, chi mi ascolta da tempo, sa quanto io sia appassionato di mondi paralleli, quanto provi suggestione nell'immaginare che oltre alla realtà che noi viviamo concretamente e sensorialmente presenti, ne esistono tante altre che ci attraversano, molte le riconosciamo, le vediamo, altre le intuiamo, di altre sentiamo soltanto profumo, in alcune ci buttiamo a capofitto volentieri, poi magari uscirne è molto difficile, in altre magari evitiamo di entrarci. Fra tutte queste realtà, alcune oniriche, alcune ipotetiche, alcune fantastiche, alcune letterarie, ne esiste una molto concreta. In tante città italiane, anche nella città che mi dette natali, esistono degli edifici, anche molte volte nell'abitato cittadino o molte volte nelle estreme periferie, che hanno delle caratteristiche molto particolari. Hanno delle alte mura molto spesse, hanno delle finestre con le sbarre, hanno delle persone che passeggiano armate al di sopra, sul ciglio di queste mura. Queste sono le carceri. Si possono fare tanti discorsi sulle carceri, sui carcerati, si può parlare dei diritti dei carcerati, dei problemi dei carcerati, dell'emergenza carcere, si può parlare della certezza della pena, si può parlare di tutti in galera o si può parlare di tanti innocenti che stanno in galera. Ma questa mattina vorrei parlarne come una possibilità che può lambire ciascun essere umano. Ognuno di noi passa quotidianamente lungo una strada, accarezza con lo sguardo vari edifici di quella strada, riconosce persone, riconosce profumi. Immaginate quella strada vista dall'altra parte, da quell'altra realtà parallela, vista a scacchi, vista di straforo, vista di sfuggita o semplicemente ascoltata come rumore, come basso continuo, dalle persone che stanno dentro. Beh, questa mattina 800 24 00 24, la domanda che vi faccio: avete mai pensato che effetto possa farvi passare al di là di quel muro ed entrare in un carcere? O se ci siete mai stati, perché non me lo raccontate? Mi chiamo Alfredo, ho 53 anni. Nell'80, una sera c'è stata una discussione in più, uno ha tirato fuori una pistola, io l'ho disarmato. Probabilmente gli ho fatto anche un po' del male, però la cosa era finita lì, insomma. Qualche... è stato un anno dopo circa. Arrivano i carabinieri in borghese, mi dicono: lei deve venire con noi. Mi portano via. Il mandato di cattura era lungo un chilometro perché c'era... rapina a mano armata, minaccia a mano armata, sequestro di persona. Ce n'era su per 15 anni, 20 anni minimo. Senza tanti complimenti, comunque trattato come un delinquente. Mi ha messo direttamente in cella di isolamento, dove sono rimasto 9 giorni. Ognuno di noi potrebbe trovarsi nella vita ad attraversare un'esperienza non proprio felice, come questo nostro ascoltatore che ci ha regalato la sua testimonianza. Si trova coinvolto in un fatto violento, probabilmente è un ascoltatore che sa il fatto suo, di fronte a un uomo armato con una pistola, invece di fuggire, alzare le mani, darsi le gambe, morire di terrore, farsela addosso, lo affronta, lo disarma, però questo crea a lui qualche problema. Io me lo ricordo come fosse successo ieri, perché i carabinieri mi hanno proprio marcato con la pistola in mano. Invece le guardie carcerarie, secondo me, sapevano già che era un errore, perché mi hanno sempre trattato bene, mi dicevano: vuoi ancora acqua, vuoi ancora... cioè non mi hanno mai fatto sentire loro carcerato, assolutamente. Questo devo proprio ricordarmelo per sempre. Psicologicamente era una mazzata, perché sono cresciuto integralmente come morale, come principi, che non mi sarei mai aspettato di andare a finire in prigione. Quindi ero dentro, mi sentivo veramente, ma di più che oppresso. Allora, per passare il tempo, l'unica cosa da fare erano flessioni e... io in 9 giorni ho visto soltanto le guardie carcerarie che venivano a fare l'ispezione giornaliera, controllavano le sbarre, controllavano se c'era qualcosa nel letto, quando insomma avevo un piantone davanti alla porta 24 ore al giorno. Ed ecco che improvvisamente ci si trova proiettati nella realtà parallela. Realtà che abbiamo molte volte sfiorato, ma quelle mura non sono soltanto spesse per la consistenza dei materiali con cui sono state costruite, proprio per evitare passaggi, osmosi non consentite, non controllate tra l'una e l'altra realtà. Sono anche spesse perché mettono un limite fra due mondi totalmente inconciliabili: il mondo delle persone libere, il mondo delle persone che hanno libertà di azione, di parola, di relazione, di movimento, nonostante tutti le pregiudiziali che si possono mettere a questa espressione, e le persone che stanno dentro, che non hanno più nessuna libertà perché sono carcerati. Ora, noi siamo portati a pensare che in carcere ci vanno persone che fisiologicamente hanno delle attitudini, o perlomeno delle promiscuità quasi genetiche con l'ambiente carcerario. In parte è vero, esiste il coatto elettivo, esiste il carcerato fisiologico, esiste quello che fa avanti e indietro, esiste quello che fa parte comunque di una fetta della società che ha familiarità con questa possibilità di entrare e uscire dal carcere. Su questo è stata fatta tanta letteratura, sono stati fatti film, esiste una forma gergale per definire appunto questo tipo di ambiente. Ma in realtà l'uomo comune, l'uomo che mai penserebbe di trovarsi in questa situazione, è come se facesse un salto di anni luce, come se entrasse proprio in un'altra dimensione spazio-temporale. Cambia completamente tutto, cambiano i parametri. Un altro essere umano, pensate, sembra banale vederlo al cinema, è una cosa comune, ma provate a entrare nell'ordine di idee che un altro essere umano è preposto alla sorveglianza delle vostre funzioni quotidiane, anche le più banali, come lavarsi la faccia, farsi, ammesso che sia permesso, la barba, e controllare che voi in quella situazione di coercizione non facciate nulla contro quella che è la regola che stabilisce che in quel luogo esistano delle persone che sono detenuti, quindi sono in stato di coercizione e limitazione delle loro libertà, e delle persone preposte legalmente, per legge, perché è giusto che sia così, al loro controllo. È un po' come fossero dei badanti di esseri disabili, ma una persona come il nostro ascoltatore non ha in coscienza fatto nulla per sentirsi in quella condizione, perlomeno è convinto di non aver fatto nulla, non è fisiologicamente un coatto. Ecco, noi siamo abituati da recenti, nemmeno tanto recenti, episodi che hanno coinvolto il mondo della finanza, il mondo della politica, anche il mondo dello spettacolo. Sere fa abbiamo visto Fabrizio Corona in un dibattito televisivo prendersela con Livia Turco, che non dava segni di averlo riconosciuto in quanto protagonista delle cronache italiane di lunghi mesi. Persona che vediamo tranquillamente parlare in televisione, persona che comunque ha avuto un'esperienza carceraria di cui ha fatto sua gloriosissima icona, di cui sono girate foto, di cui in fondo che è servita nel disagio, la situazione, a rafforzare una sua immagine. Ma anche persone che appartenevano comunque a una classe politica rispettata, osannata, di fronte a cui si genuflettevano folle intere, improvvisamente sono state viste con i ferri e i polsi in questo stato di coercizione. Non entriamo in merito sul perché, il per come, il per quanto sia giusto o ingiusto. Pensiamo soltanto al passaggio veloce e violento dalla condizione di libertà alla condizione di prigionia. Dopo 9 giorni è guarito il giudice, perché era influenzato, e mi ha interrogato. Mi ha detto: ma cosa è successo? Allora il giudice ha sentito la mia testimonianza e mi ha detto: vabbè, ci sentiremo. Intanto però ho dovuto muovere degli avvocati e sono andati 20 milioni quella volta lì per difendermi. Finito l'interrogatorio col giudice, mi hanno mandato con i carcerati in una cella da 4-5 persone. Però insomma, lì non ho mai avuto problemi. I carcerati credo che fossero veramente dei poveracci, insomma, quei ladruncoli che entrano e escono dal carcere perché hanno problemi di sopravvivenza, credo, ma nessuna persona cattiva dentro io ho incontrato, anzi. Improvvisamente quelle che sono liturgie che sembrano appartenere alla letteratura o l'esperienza del nostro prossimo, che mai entrerebbero in collisione con la nostra esperienza personale, diventano le nostre. Improvvisamente ci rendiamo conto che le nostre abitudini, i nostri usi quotidiani, quelli più indifferenti, le cose che facciamo in totale automatismo, le cose per cui Noi non ci poniamo problemi perché le diamo per scontate che possiamo alzarci la mattina, aprire il rubinetto, escare acqua calda e possiamo lavarci la faccia, farci una doccia, cospargerci di unguenti profumati, fare insomma quello che ci va di fare la mattina tranquillamente. Beh, in quel posto non si può fare, non si può fare in libertà, non si può fare in intimità. Improvvisamente cadono secoli e secoli di civilizzazione. Penso e ritengo che probabilmente sia giusto, sia normale, sia usuale, o fa parte di una prassi, o fa parte di una necessità, o fa parte di una ineluttabilità che nella vita carceraria esista questo. Ma naturalmente pensarci mentre si guarda felicemente il sole dalla propria finestra, che si può aprire e chiudere a piacere, in effetti forse può dare e può suggerire qualche riflessione. Io non avevo né da radermi, perché mi hanno portato via dalla falegnameria, sporco com'ero, non mi hanno neanche lasciato andare a casa né a cambiarmi né a lavarmi. Io dopo 9 giorni non mi ero mai fatto la barba e mai pettinato. E come si può sentire uno, cioè, impotente, ma proprio una cosa umiliante che è perfino difficile da descrivere a parole. Bisognerebbe solo provare, andare lì e dire, boh, mi hanno carcerato, adesso sono in balia di queste persone, perché non so quando uscirò. Non so se uscirò, non so come fare a difendermi. Quando sono uscito, il direttore del carcere, parole che potrei ripetere testualmente dopo 30 anni, mi ha detto, beh, guarda, tanto tornano tutti qua dentro. Era certissimo comunque questo qua, che io fossi un delinquente. Beh, una frase che sembra ereditata da un film del dopoguerra, del neorealismo, una commedia all'italiana con Alberto Sordi. Il direttore dice, poi qua tornano tutti. Penso che tutti i direttori di tutti i carceri in qualche momento della loro attività professionale debbano dire, e qua rientrano tutti. Non so se è una speranza, non so se è una iattura, non so se è un senso scaramantico di dirlo. La cosa che invece fa riflettere è che questa sia un'esperienza possibile. C'è un film di cui in questo momento mi sfugge il titolo, ma ricordo perfettamente la trama. In un setting sperimentale furono prese, erano tutte persone civilissime, addirittura mi sembra fossero scienziati, psicologi, ricercatori, non so bene. Poi adesso durante la pausa guardo su Google, poi vi dico di cosa si tratti. Prendono un gruppo di persone, dicono metà siete carcerati, metà siete carcerieri. Facciamo questo esperimento, una specie di grande fratello, passate un periodo in cui gli uni fanno le vittime e gli altri fanno i carcerieri. Persone civilissime, nel giro di pochissimo tempo, entrano talmente nella loro parte che i colleghi carcerieri diventano gli aguzzini terribili, in assenza di legge, in assenza di diritto, in assenza di controllo, e gli altri passano dei momenti bruttissimi. È un film truculento, finisce naturalmente a lacrime e sangue. Questa è l'esasperazione di una tendenza, ma questo è lo spauracchio, l'incubo che comunque agita chiunque. Ecco, Experiment si chiamava il film, ecco, Experiment, l'esperimento, fu una cosa terrificante. E questo però è il grande rovello che prende la persona priva dei mezzi di elaborazione della situazione carceraria, non l'abituale coatto che entra e esce, anzi, che probabilmente sono periodi di riflessione, di relax e di importanti public relation entrare in carcere, no, la persona che pensa che come appunto l'experiment possa essere questa sua esperienza, pensa di non uscire mai più, o pensa che quello che gli viene privato, che per lui è scontato, banale, quotidiano, rappresenti un salto indietro nel tempo di millenni. Ma non l'ho lasciato andare, io sono tornato alle mie cose, è passata la vita. Una decina d'anni dopo parlavo con un mio cliente che era avvocato e mi fa, ma scusa, ma non hai chiesto un risarcimento? Chiedi che intanto ti venga notificato che il tuo problema giudiziario è stato risolto. Allora mando via questa istanza, io non ho mai avuto risposta. Ma il mio problema è questo. Io sono sempre stato fermato alle frontiere, mi ricordavano sempre che sull'Interpol io sono segnalato come ex carcerato. Sono le mie foto segnalate a tutte le frontiere del mondo. In Israele sono stato fermo 9 ore al controllo immigrazioni e mi dicevano, ma lei non è ricercato in Italia? Ma no, dico, ma scherzate. Però questo marchio io me lo porto dietro ancora oggi. Questo marchio rimane a vita. Quello che io ho provato non si dimentica mai, perché non ho 20 anni, insomma, non vado sull'onda delle emozioni, ormai la mia vita io me la son più che vissuta. Non si dimentica mai. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno. Lei è stato 10 giorni in carcere per rissa. Sì. Non si sarebbe mai aspettato, non è un abituale delinquente. Guardi, non glielo auguro a nessuno. Cosa era successo, si può sapere? Era successo che stavamo lì sull'area di servizio, la macchia, se non mi sbaglio. Niente, c'era il furgone che non funzionava bene, non so cosa è successo, comunque stavamo andando addosso, ma non proprio, niente, non è che siamo andati addosso, due persone che sono risultate ubriache. E ho detto, vabbè, ho visto che erano ubriaco, ho detto, vabbè, lascia stare, ce ne andiamo. Invece uno mi ha preso, mi ha tenuto, e l'altro menava. Menava colpi grossi, Mio cugino che stava alla guida del furgone è uscito, lei sa che i furgoni grandi hanno come cricca hanno una sbarra di ferro. Che detto, casualmente era lì a portata di, loro, era lì a portata di mano. Era 1,90 m, era un armadio. Ma come ci ha dato la botta in testa? Questo si è girato e l'ha preso per il collo. E l'ha alzato proprio in aria. E il mio cugino gli ha dato un'altra botta in testa. Fino a quando poi lui litigava con questo e io litigavo con quell'altro. Cioè lo menava e non succedeva nulla. È arrivata la polizia stradale ci ha preso e ci ha portati via. Uno dei due, quello lì grande, è andato all'ospedale. Quando ci hanno portati via, dopo due giorni il giudice è venuto ad interrogarci, ha detto che è successo così, così, così. Abbiamo spiegato, guardi, questo che era ubriaco, così. E il giudice non ha voluto sentire ragione, ha detto nel mio territorio, sto parlando di Frosinone perché siamo stati nel carcere di Frosinone. Sì, ma parli del carcere, adesso la vicenda l'abbiamo capita, siete stati coinvolti in una rissa, è sempre meglio andarsene in quei casi, poi se non ci si trova dentro. Come no, ma io stavo, ero andato via, però queste qua... Lo so, sono situazioni molto brutte, molto difficili anche dare consigli e giudicare, ma mi parli di questi 10 giorni. Le dico subito, in una cella eravamo... Ma tutti in galera, lei, il padre, il cugino, soltanto lei? No, io mio cugino e gli altri due. Ah, tutti insieme? I contendenti, diciamo. Ma insieme nella stessa cella? Uno dei quali è rimasto con noi, perché l'altro è andato all'ospedale. Quello grosso? Quello grosso è andato all'ospedale. Vabbè, quindi la sbarra di ferro ha fatto il suo effetto alla fine. Sì, come prima notte siamo stati comunque nella cella solo. E che vi dicevate poi? Il giorno dopo siamo andati tutti quanti nella stessa cella. Anche questo qui che ha partecipato alla rissa contro di noi. Cioè fa un po' sorridere il fatto che andate in galera perché vi siete fatti... Sì, questo infatti, guardi, che ci aveva una paura perché lui era ubriaco. E quando si è reso conto di quello che era successo, lui aveva una paura di stare in cella con noi. Ma chiesto comunque, scusa. Con noi stavamo 8 letti. C'era un epilettico, c'era uno che ogni sera andava nel letto di un altro... Guardi che non le sto dicendo questo. No, sono scioccato. Cioè andava nel letto di un altro nel senso... Ho detto cazzo, io avevo 21 anni, 22 anni. Ero ancora bellino, simpatico. Cioè lei diceva, fra un po' il mio turno. Prego? Lei pensava fra un po' sarebbe venuto il suo turno. Oddio, che facciamo? Mentre invece il giorno dopo è venuto uno e ha detto chi siete, chi non siete, da dove venite, da dove non venite. Dato che noi venivamo dal centro di Napoli, una zona abbastanza... Però senta, scusi un attimo, visto che mi chiedono la linea per le informazioni dalla borsa, visto che la storia mi sembra interessante, soprattutto ha omesso il fatto della sua paura che venisse il suo turno quando girava alla fine tutti i letti questo signore. Stiamo parlando, di passaggi cruenti, veloci, improvvisi e dolorosi dalla condizione di uomo libero alla condizione di uomo carcerato. Giuseppe, abbiamo interrotto nel suo racconto, riassumo, si trova coinvolto in una rissa tra automobilisti e si trova incarcerato. Lui, il cugino, è una delle persone con cui era venuto alle mani, magari non per la sua volontà. Cosa è accaduto? È accaduto poi che, ho detto, siamo andati la prima notte, siamo stati nella cella di rigore, si chiama solo, un cubicolo di 2 metri per due e meno, cioè facevi 3 passi e eri arrivato, è una cosa assurda. Poi il giorno dopo ci hanno messo in cella insieme tutti quanti, anche la terza persona, perché l'altra stava in ospedale. E eravamo in 8 in quella stanza, c'era un epilettico. E c'era, le stavo dicendo prima, che di notte poi, quando veniva sera, uno di loro andava nel letto di questo epilettico e si sentivano i rumori così. E io dicevo, mamma mia, aiuto, com'è qua? Mi ha detto, avevo 22 anni. Ecco, la sensazione qual è? Di entrare in una specie di inferno che poi in realtà sta accanto a casa nostra, perché le carceri stanno accanto a luoghi dove vive altre persone. Infatti, guardi, è una cosa... Poi il giorno dopo invece sono entrate un paio di persone dentro, perché loro sanno in carcere tutto quello che succede, e sapevano che eravamo entrate, chi siete, chi non siete, da dove venite, cosa fate, eccetera, eccetera. Ma venite da là, perché noi venivamo da Napoli centro, no? Questa è una zona tipo Forcella, sai quelle cose lì, noi siamo di quella zona proprio del centro, conoscete questo, conoscete quello, sì. Cioè volevano vedere se eravate camorristi, tanto per essere... No, voleva sapere chi eravamo, visto che eravamo ragazzi per bene alla fine, perché insomma... Non eravate del giro, ecco. Lavoravano, non eravamo nel giro, però conoscevamo l'ambiente, cioè sapevamo. Lui ha detto, ha fatto proprio così qua, ha fatto un gesto, ha fatto, si è toccato il petto, ha detto, questi qua sono roba mia, perché era uno di Roma o lì vicino, ha detto, questi qua sono roba mia, e basta. E quindi non c'è successo niente, meno male, perché io mi aspettavo, sa, insomma. Poi siamo andati fuori con lui, ci ha offerto da mangiare, di venite qua, mangiate qua con noi, poi siamo andati a giocare a pallone nell'ora d'aria e altre cose della violenza, guardi che non le dico, perché intanto che gioca a pallone uno fa un fallo, capita, no? E quell'altro che gli dà tante di quelle botte lo lascia per te, dico, mamma mia, e noi giocavamo a pallone. Vabbè, comunque guardi. Quindi vi siete adattati, insomma, questi 10 giorni avete velocemente capito quelle che erano le regole per riuscire a sopravvivere in quell'ambiente? Ero magro, pesavo sui 73-74 kg. Ho perso 7 kg in 10 giorni, e non le dico per lavarsi, non le dico il bagno, non le dico, cioè tutta una cosa, lì ho imparato la libertà è il bene più grande. E secondo lei era necessario andare 10 giorni in carcere per capire il valore della libertà? Era necessario andare 10 giorni? No, perché... solitamente queste cose succedono tutti i giorni, si fa la notte in carcere, nemmeno in carcere, si fa la notte in questura e dopo si esce il giorno dopo e dopo si va a fare la causa. Noi abbiamo fatto la causa, dopo qualche mese siamo usciti assolti, perché non è, il fatto non sussisteva, perché il risultato che uno ha fatto il pugno con uno e l'altro ha fatto... Le capita mai di ricordarle quelle notti lì, magari svegliandosi nei sogni, negli incubi? No. Quindi è una cosa completamente elaborata, quindi si riesce comunque a passarci sopra. Grazie Giuseppe. Giordano, buongiorno. Buongiorno. Anche lei è stato in carcere? Sì, 20 anni fa per un reato di natura militare, ho passato un anno in carcere, è passata varia umanità. Ricordo che quando andai al processo mi portarono alla Spezia una settimana a Forte Boccea, conobbi della gente perché ci misero in infermeria, eravamo degli sbarbatelli io e altri 3 o 4 ragazzi, ci misero in infermeria e a turno vennero a trovarci un po' dei carcerati civili, tra cui c'erano spacciatori di droga, c'era un pinocchione della Madonna che ci avrebbe volentieri messo a fil di spada, ma insomma siamo riusciti a starne lontani. Poi c'era delle persone che effettivamente, come a volte sembra un discorso retorico, però c'è veramente tanta gente dietro le sbarre che non meritano di starci, perché cioè, lo capisci da come ragionano, che comunque ci si rende conto di essere anche merce di scambio nelle logiche, nelle dinamiche, nei passaggi che ci sono all'interno di un carcere. Improvvisamente bisogna appartenere a qualche logica per sopravvivere. Se non si è in una certa maniera, se non si appartiene a un gruppo, se non si fa qualche nome, comincia a essere difficile la vita. Grazie Giordano. Volevo a questo punto dare la parola a una persona che ha studiato profondamente l'ambiente di carcere, anzi la storia dei carceri. Ci ha scritto anche un libro, Camosci e Girachiavi, storia del carcere in Italia, diamo l'editore, La Terza Editore, è Christian De Vito. Christian De Vito, buongiorno. Buongiorno. Questa mattina abbiamo voluto fare un esperimento che forse affine a quello che è stato parte della materia del suo libro, di cercare di capire quanto sia normale, tranquillamente possibile nella vita di un individuo che mai penserebbe di fare questa esperienza e trovarsi al di là della linea di demarcazione tra uomini liberi e uomini incarcerati. Ecco, delle telefonate che ha sentito, le testimonianze che ha sentito, cos'è che le viene da dire alla luce della sua esperienza? Ma mi vengono a dire diverse cose. Dirò questo, che quello che le due persone che hanno parlato prima di me hanno sottolineato è la quotidianità della vita in carcere, diciamo, no? E anche questo discorso del fatto che l'esperienza carceraria, in fin dei conti, è più comune e può capitare più facilmente di quello che non ci si aspetti, e quindi di carcere forse bisognerebbe occuparsene un po' di più, anche forse solo per questo. Per quanto riguarda l'esperienza quotidiana del carcere, è uno dei grandi elementi di continuità della storia del carcere, ossia i meccanismi che governano la vita di tutti i giorni nelle carceri sono una delle costanti che si trovano attraverso i decenni, prendendo gli anni 50, gli anni 60, gli anni 70, cioè questo meccanismo fatto appunto di queste relazioni di potere, questi giochi di scambio, questa logica, queste mentalità collettive alle quali bisogna adeguarsi sin dal primo momento dell'entrata, no? Come ci diceva. Ma questa possibilità che non ci siano evoluzioni nei nelle liturgie proprio del carcerare significa che probabilmente è la forma migliore sia per gestire i carcerati sia per gestire la propria autonomia nell'interno della autonomia, per modo di dire, all'interno del complesso meccanismo della convivenza con persone che stanno dentro e in gran parte ci stanno perché hanno nature violente, nature dedite comunque alla non osservanza dei diritti degli altri esseri umani. E beh, diciamo che certamente è un meccanismo che si riproduce appunto giorno dopo giorno, che però è fatto, e questo diciamo da un punto di vista, cioè fermo restando che rimane simile, poi nei decenni si vedono dei cambiamenti, perché naturalmente la capacità che hanno i detenuti di affermarsi anche come soggettività di gruppo poi ha cambiato in alcuni periodi storici la situazione. Penso soprattutto naturalmente alla fase subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, come anche a quella dal 68 alla metà degli anni 70, quando insomma, i detenuti organizzati nella parte finale, diciamo, nella parte degli anni 60 e 70, anche politicizzati e sostenuti dall'esterno, avevano una capacità di imporre non solo questo tipo di mentalità un po', diciamo, da coatti, ecco, tra virgolette, ma anche una mentalità che andava nel senso di una maggiore solidarietà. La storia del carcere si può fare anche guardando quali sono i periodi in cui le porte delle celle erano aperte e quali sono i periodi in cui le porte delle celle sono chiuse. Sì, perché sono carcere. Io mi ricordo di aver visitato nemmeno tanto tempo fa Porto Azzurro per un reportage. Ci sono carceri in cui si vede che le situazioni sono cambiate e si vede anche la stratificazione dei diversi periodi. Un carcere che è un carcere una volta terrificante, in cui si vedono anche momenti che danno sollievo. Avevo visitato le insegnanti, ho seguito alcuni momenti didattici. Certo, in alcune celle c'erano persone che hanno ucciso 10 persone, altri certo. Che avevano fatto. Non è che non dobbiamo nemmeno crogiolarci nel luogo comune, ma ci sono tante brave persone, sì, tante brave persone, ma la cifra essenziale che si respira in un carcere è un senso profondo, terrificante, di necessità di tenere a bada persone che non hanno né legge né umanità. O comunque diciamo che quello che può interessarci è capire i meccanismi che regolano quella realtà, e il meccanismo quotidiano è quello che descrivevano due signori. Il meccanismo più complesso, diciamo, da un punto di vista di gestione è quello dei tanti circuiti carcerari, ossia la massa della popolazione detenuta, che in questo momento è di circa 62.000 persone che sono nelle carceri italiane, non viene governata dalle autorità penitenziarie tutte allo stesso modo. Ci sono carceri di massima sicurezza e ci sono carceri di minima sicurezza, ci sono dentro uno stesso carcere di una grande città, ci può essere una di fronte all'altra, una sezione appunto a custodia attenuata con un regime di celle aperte eccetera, e una sezione invece, per dire, a 41 bis, dove i detenuti si possono vedere soltanto a gruppi di 5, andare a fare l'aria sempre i soliti 5 eccetera eccetera. Cioè ci sono situazioni molto diversificate che corrispondono alle esigenze delle autorità penitenziarie di controllare segmentando la popolazione. Sentiamo un attimo Salvatore, buongiorno. Buongiorno. Lei ha lavorato per delle ditte esterne che facevano servizi ai carceri, quindi ha una sua esperienza non di carcerato, ma di frequentatore di carcerati. No, di frequentatore, proprio come diceva lei all'inizio della trasmissione, dal vedere dal di fuori il carcere, poi visto da lì. Cioè, il fatto stesso che quando arrivi, entri, devi depositare cellulare e tutto, perché entri già in una situazione diversa. Poi all'interno hai i loro uomini che ti danno una mano, che sono addetti a lavorare per le ditte esterne, ti aiutano. È una vita, diciamo, ci sono, come sentivo prima, perché ho spento la radio prima, adesso sentivo, ci sono i posti dove sono liberi, che camminano nei corridoi, si muovono, e poi ci sono le parti in cui giustamente non... Ecco, ma qual era la sua sensazione? Proprio una sensazione epidermica. lei che entra e esce, quindi un uomo libero che entra e esce, vedere persone che invece quando le esce rimangono dentro. Esatto, infatti ho avuto modo proprio di parlare con loro, dice, ragazzi, alla fine la situazione è che io alle 2 ho finito e vado, e voi restate qua e ci vediamo domani, e sono rassegnato, e loro purtroppo lo sanno che devono star lì, e la sensazione era proprio il restar chiusi, non... Per me il tremendo era quello, cioè il non poter pensare che dopo una certa devi star lì, non ti puoi muovere. Avevo pensato addirittura che sarebbe, come posso dire, far visitare ai ragazzi. Cioè sarebbe didattico, educativo, far visitare ragazzi ai carceri per capire come gestire meglio il proprio tempo. Melog 2.0. Io ho fatto un anno e mezzo di carcere, come sono stato a Poggiorale a Napoli, tranne il primo mese che sono stato a Viterbo. Di professione, diciamo, sempre fatto il camionista, ho trasportato delle sostanze illegali, insomma, dall'estero. Ci tengo a precisare che non avevo mai fatto un tipo di reato simile, insomma, era stata la prima volta. Mi hanno giustamente preso, mi hanno giustamente condannato. Diciamo che è tipo un incubo, ma non per come ti trattano, è per la distanza che hai dalle tue abitudini, soprattutto dai familiari, soprattutto dai figli, insomma. Cose che forse non pensavi, oppure ti sentivi invulnerabile prima, quando avevi la non coscienza di quello che era la libertà, insomma. Poi una volta che sei là, ti cade, ma sembra una frase fatta, però è così, cioè il mondo ti cade addosso, insomma, inizi a pensare a tua moglie, ai figli, diventa qualcosa di duro, a sapere che non sei ignoto sulla sentenza pure, no, sulla condanna, cioè all'inizio tu non sai comunque niente. Ecco un altro ascoltatore, Eugenio, che ci ha telefonato, ci ha raccontato la sua storia. Ha passato un anno e mezzo in carcere, giustamente, lo ammette. Si è lasciato andare dalla tentazione di fare un trasporto, lui camionista, di merce non legale, quindi immagino stupefacenti, cose del genere. Come tutti i neofiti viene beccato subito, immediatamente, e entra in carcere. E qui c'è il senso vero e in fondo concreto per cui esistono i carceri. È una correzione, è una pena, se non si chiamerebbe istituto di pena. E racconta quali sono i sensi profondi di questa pena, e la distanza, l'improvvisa mancanza dei legami affettivi delle persone, l'improvviso troncarsi di tutte le abitudini che consideriamo inalienabili al nostro vivere sereno, o meglio, ci accorgiamo improvvisamente quanto erano indispensabili al nostro vivere sereno. Una cena abbastanza grande pure, avevamo un bagno in comune e avevamo pure un piccolo cucinino dove ci autocucinavamo noi, insomma, no? E eravamo abbastanza omogenei come, anche come età, e ci siamo trovati abbastanza bene, quasi tutti nello stesso tipo di reato. Ci svegliavano la mattina alle 7, alle 8 dovevamo essere pronti, si scendeva, dovevano fare l'appello, insomma, e stavamo là. Poi avevamo libertà fino a mezzogiorno. È il tempo, è l'occupazione del tempo, cioè tu ti rendi conto di quanto tempo sprecato hai, il fatto di non dover e volendo puoi non far niente per circa 12 ore al giorno, insomma. Stavi là in ozio e pensavi, cioè pure giocavi, noi avevamo un gioco che avevamo creato noi, il gioco delle pulci, no? È un gioco che facciamo noi, e poi ci giocavamo la caramella, la sigaretta, insomma, era una cosa giusto per passare un po' di tempo. Ecco il problema annoso, il problema veramente che forse rappresenta la più insolubile delle domande, un tempo interminabile. Non ci accorgiamo ogni giorno quanto con leggerezza buttiamo via il nostro tempo, perché pensiamo di averne a disposizione un'infinità nel nostro senso detestabile di immortalità, di eternità. Ma facciamo una serie di cose, oppure neghittosamente bruciamo le ore, il tempo, evitiamo di avere occasioni di esperienza, di approfondimento, di divertimento, di piacere, di passione, di interesse e via dicendo. Nel carcere ogni istante è prolungato, dilatato, perché non si ha mai nulla da fare. Mi interessa invece, proprio di fronte a questa esigenza e a questo vuoto, quello che fa Stefano Parenti. Stefano, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Nicoletti e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ecco, mi ha divertito, mi ha interessato che lei si occupa di una rassegna di cinema, di cinema particolari che non sono che non vanno nei circuiti più importanti, ma cinema di grande valore. E li propone carceratico. Mi spieghi bene, perché sembra un paradosso. Sono prodotti per palati raffinatissimi e vengono portati ai carcerati che in realtà potrebbero avere dei palati abituati, uno si immagina, a cose di ben diverso tipo. Ma questa rassegna cinematografica Filmspray, promossa e curata, organizzata dall'Istituto di Cultura Lorenzo de' Medici, è proprio una rassegna di film invisibili, ovvero di film che sono stati girati e non distribuiti, o che hanno avuto una distribuzione limitata a causa, diciamo, del sistema Italia, tra virgolette. Quindi non fin da cassetta, ecco, perlomeno nell'accezione più comune. Sì, esatto. Noi, grazie alla disponibilità di un penitenziario come quello di Re Bibbia a Roma, alla sua dirigenza, in particolare al dottor Cantone, alla dottoressa Covelli, abbiamo avuto la possibilità di portare dentro al carcere questo tipo di cultura. Lei ci è andato personalmente? Io ci sono andato personalmente, era la prima volta. Ecco, mi racconti allora la proiezione di un film che normalmente la gente si metterebbe magari a sbadigliare, non ci andrebbe nemmeno, in un ambiente carcerario. Cosa è avvenuto? Guardi, in un ambiente carcerario lei le sta dicendo che queste sono cose per palati raffinati, eccetera. Non credo, io ho trovato veramente grande preparazione e grandissima sensibilità, e credo che una grandissima sensibilità che forse con questo scorrere lento del tempo si può anche affinare basti e avanzi per poter essere spettatori di questo tipo di cinema. La mia sensazione quando sono entrato là, è proprio il mio sentimento, perché ovviamente mi sono fatte tante domande, non è stato assolutamente un sentimento di timore, per esempio verso i detenuti, no? Che potrebbe essere scontato anche. Eravamo io solo insieme a un mio collega, circa 30 detenuti con una guardia penitenziaria, e devo dire che c'è stata subito una curiosità reciproca, è come se avessimo avuto bisogno gli uni degli altri, a tutti gli effetti. Io francamente mi sono sentito nudo, ho potuto mettere da parte tutte le sovrastrutture che magari il mondo quotidiano ci impone, a chi più chi meno. Okay, è chiaro, la interrompo solo un attimo perché volevo anche sentire il parere di Angelo Marroni, che si occupa di diritti dei carcerati professionalmente, quindi anche lui ha un'esperienza di contiguità, è una delle persone che entrano e escono. Anche lei ha avuto modo di ascoltare le testimonianze, soprattutto questo senso di improvviso spaesamento di chi ci capita e mai avrebbe pensato di doverci capitare. Cosa avrebbe da aggiungere? Ma io devo dire che il problema è drammatico soprattutto per quelli che non hanno, come dire, recidive, quindi non hanno esperienze già acquisite di carcere, quelli che così si chiamano abitualmente i nuovi giunti, dove peraltro c'è più alto rischio di suicidi nei nuovi giunti, perché lo spaesamento è totale, la lontananza dalle famiglie, dagli ambienti, dalle città in cui hanno vissuto, dai comuni in cui hanno vissuto, e quindi qui è la fase più drammatica, tant'è che è lì dove necessita soprattutto un supporto psicologico. Esiste questo in media nelle carceri italiane? O se no come una persona come lei? No, non esiste molto, anche perché gli psicologi sono pochissimi, peraltro adesso con questa fase di passaggio dalla sanità penitenziaria alla sanità pubblica, gli psicologi sono rimasti pure fuori da questo passaggio, e c'è un disagio enorme. Sento un altro problema, immagino, ma lo pongo soltanto come sollecitazione, perché voglio tornare su questo tema e probabilmente la riconvocheremo. È caduto. Beh, è caduta la linea, benissimo. L'altro problema che mi interessava era l'osmosi e il cambio di cultura all'interno del carcere. Questa trasmissione riprenderò il filo, questa trasmissione mi organizzerò forse addirittura domani, se riusciremo a rimettere insieme i nostri ospiti, visto che c'è stato molto interesse, visto che la trasmissione è finita in maniera così brusca. Continuiamo domani sul carcere. Avete tutto oggi di pomeriggio per rimandarci le testimonianze, visto che è così sentito questo senso di passaggio e questa quasi fatalità di trovarsi ancora in un luogo in cui le regole di vita e di comportamento sembrano così lontane dal livello di civilizzazione a cui siamo abituati. A domani, quindi, continuiamo col carcere. Giù alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22. Melog 2.0.